dentro il desiderio, perché lontano da te non c'è nient'altro, perché lontano da te non c'è nient'altro. Sarà perché ho scelto te come lamento, come lamento. Fermi immobili nell'universo, semplice il tuo risveglio. Suoni, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, dolce naufragare al contrario. Un labirinto, saliamo in alto, non troppo in alto, non troppo in alto, non troppo in alto, non troppo in alto. Sotto le nuvole, in uno sguardo sentirsi labili, incubi e suoni, incubi e suoni. Un altro sbaglio, un altro sbaglio. Non devo arrendermi, non devo arrendermi. Dolce naufragare al contrario, dolce naufragare al contrario, dolce naufragare al contrario, dolce naufragare al contrario. Un altro sbaglio, non devo arrendermi. Ho scelto te come lamento, perché lontano da te non c'è nient'altro. Fermi immobili nell'universo, semplice il tuo risveglio.